io piove a dirotto, un balordo mi guarda storto, qualcuno più distante parla disinvolto, incrocio sguardi noto, un profondo vuoto, faccio pochi passi, troppi occhi bassi, che cambiano strada pur di non guardarsi, altri a fissarsi fanno i mostri per mostrarsi, ma da sempre il più forte porta l'ombra sugli scarsi, la mia città è troppo piccola, lo sanno tutti se sgarri di una virgola, me la giro. Dove vivo ci sono più zombie che Resident Evil. Chi vive nel passato è passivo. I palazzi, le mie sbarre. Chi cambia le cose, chi è stanco di sforzare. Conosco qualche faccia, non mi ricordo i nomi. Se conti le persone in depressione ti impressioni. Ognuno con se stesso, ognuno col suo team. Vedo sempre questo nel mio giorno di routine. Da anni dico scappo, ma sono ancora qui. E resta così. Peace. La mia città. Tutto si sa. La notte mormora. La mia città è troppo piccola. Sono sempre qui, resta così. Grigia e monotona. Infatti tipo scomincita, consumo la mia vita, tirandone la linfa tipo siga tra le dita. Scandendo la lancetta, rigiro la clessidra, scasando dalla porta, ma aspetta sotto un rigaz, pensieri in mente storta, mamma cingo a far le scale, a noi serve una svolta, ne parlerò con Ale, schiudendo poi il portone, che sorpresa trovo dietro. Oh bella breeder. Oh bella vetro, vaghiamo senza pausa sulla strada per lo skate, come fossimo in un film, messo in stile old remake, cercando ormai l'evento dentro tutte le sue forme, pur viaggiando tra sto fango diventando nelle orme, puntuali come Swatch, perché al parco ci sta Scotch, mi dirigo alla Peugeot, che in futuro sarà un Porsche, boh, ma chi mai lo saprà, quale mezzo devo usare per andare via di qua, l'intermezzo da trovare tra finzione e realtà, sono ste parole a muzzo messe in rima con sti fra, melodia, fantasia, grazie ad essa fuggo via, scappo da codesta messa, ora sempre così sia. Qui la bestia fa tempesta, proclamandosi messia, celebrando le sue gesta, poi narrato in ogni via. Prigionieri in prigionia, grazie a legge che condanna come una spietata arpia. Ti corregge se ti sgama, leva sogni e libertà. Stessa storia, stessa trama, qui sto dentro ad Alcatraz. La mia città è troppo piccola. Ma si sa, tutto si sa. Così grigia e monotona. Da tranquillo servo tutto da seduto. Mi sforzo nel parlare pur di non restare muto. L'attitudine svanisce in questo mare. Penso solo maledetta solitudine. Vorrei farmi evadere, ma questa noia non conosce il suo confine. Cercando perfezione in una rosa senza spine. Le salite di tristezza, dolce carezza, paranoia, scambio sguardi, gentilezza. Ma la gente che mi gira attorno, sempre la stessa. Non pensarci, se ti trovi stretto in una morsa. Chi fa corsa per trovare una chimera, ti consiglio, non mi fido. Questa vita sotto forma di megera. Lo sfizio, me lo tolgo con giudizio. Se ci pensi ogni 10 passi, te la vedi con il rischio di restare sordo in questa mia città, dove tutti alzano la voce per entrare meglio in società. E dopo ti domandi se questa è libertà. Il sorriso che si copre con un velo. Ogni giorno che trascorre c'è una stella in meno che colora il cielo. Riempio i giorni in depressione, confolata in pura confusione. Amico, non guardarmi se ti creo dell'imbarazzo. Non sai quanti giorni ho convissuto io con quello scazzo. Mi fido di un fratello, ma se scopri di mentire, mi avvalgo della facoltà di non soffrire. Ho smesso di pensare con il cuore, da quando l'ho smarrito quel 31 senza sole. Tutto si ferma nella mia città. Saluto i miei compari, poi domani si vedrà.